che cosa fa lo stereografo? Sì, insomma il 3D ormai è esploso, e in modo anche direi un po' schizofrenico, nel senso che c'è chi ne parla sapendo di cosa stiamo parlando, c'è chi invece ne acquisisce subito un po' di informazioni giusto per... Ecco, tu diciamo che tu lavori non per solo per il cinema, cioè cerchi di declinare la terza dimensione non solo in una chiave filmica, diciamo, ma anche per il business, per... Sì, perché di fatto, alla tua domanda, chi è lo stereografo oggi, essendo una figura nuova... È una figura che non deve soltanto fare il suo specifico lavoro, che potrebbe essere quello sul set, ma quello di aiutare un po' le aziende a creare business attorno a questo nuovo modo di comunicare visivamente. Quanto costa fare, cioè riprendere? Anzi, facciamo una cosa, mandiamo prima la scheda che racconta un po' il fenomeno 3D, poi mi spieghi bene quanto costa, che cosa ci vuole, insomma un bene. Po' tutto. Tutto ebbe inizio nel 2005, quando a Los Angeles George Lucas, Robert Zemeckis, James Cameron e Robert Rodriguez, ovvero i grandi registi di Hollywood, si presentarono alla stampa con occhialetti 3D. Era il segnale lanciato agli esercenti cinematografici americani che era giunto il momento di produrre film in 3D. 3 anni dopo, Nvidia ha lanciato il suo primo occhiale stereoscopico, nonché i driver consumer per giocare in stereo. Nel 2009 Sky TV inizia le prove di produzione e trasmissione di segnali stereoscopici. Contemporaneamente Sony, Panasonic e tutti gli altri grandi marchi cominciano a mettere in commercio televisori RIDI 3D di svariate dimensioni. Nelle sale cinematografiche il 3D è un successo, tanto da salvare l'intero settore dalla crisi. Il prezzo maggiorato per via degli occhialini garantisce alle sale l'ossigeno di cui avevano bisogno. James Cameron con il suo Avatar e le case di animazione fanno il resto. Il 3D entra così nella TV di casa e nei videogame. Secondo gli analisti, era quello che ci voleva per far tornare le persone a comprare elettronica di consumo.